L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati per questa nuova puntata dell'altro pianeta. Non siamo scomparsi, ci siamo solo spostati in avanti di qualche minuto per fare spazio alla nuova rubrica hashtag autotrasporti. Quindi d'ora in poi ci troverete alle 14.05 per qualche settimana, magari ve lo continueremo a ricordare quando sono le 14 in punto, poi ci auguriamo prenderete nota del nuovo orario. Di cosa parliamo in questa puntata? Cominceremo con la gestione dei rifiuti dell'Expo di Milano per poi passare a uno studio sulla capacità di adattamento dei pini marittimi ai cambiamenti climatici, studio condotto dal CNR. Iniziamo però con i rifiuti, come detto. Questo non sarà un dettaglio, quello dei rifiuti, nei sei mesi di Expo, visto che non solo si aspettano milioni di visitatori spalmati su questi mesi, ma anche perché giornalmente le presenze potranno arrivare in quel sito fino a 250.000 persone che berranno, mangeranno, faranno i loro acquisti, insomma produrranno moltissimi rifiuti. È chiaro che questo sarà un lavoro extra per AMSA, che è il gestore del ciclo integrato dei rifiuti di Milano, ma sarà anche un'ottima occasione per sensibilizzare e diffondere tra i visitatori il verbo, diciamo così, della raccolta differenziata, del recupero e del riciclo. E di questi temi si occuperà il CONAI, il Consorzio Nazionale Imballaggi. Che cosa farà in quei mesi? Ce lo spiega Walter Facciotto, direttore generale di CONAI. Le iniziative sono diverse. Quella più importante direi che è la realizzazione di questo contatore ambientale, cosiddetto, che misurerà le prestazioni ambientali, sociali ed economiche nella gestione dei rifiuti urbani all'interno dell'area dell'Expo durante tutto il periodo della manifestazione. In pratica si tratta di un software, diciamo così, che sulla base delle informazioni che saranno fornite dal gestore della raccolta, che poi è l'AMSA di Milano, verranno elaborate in funzione appunto di quelli che sono i benefici ambientali, economici e sociali generati da una corretta gestione dei rifiuti nell'area. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi andremo a misurare praticamente non solo le quantità di materiale che viene raccolto e da parte nostra avviato a riciclo, ma anche quelle che sono i benefici ambientali in termini di riduzioni di CO2 grazie al riciclo di questi materiali, le quantità appunto di rifiuti non avviati a discarica, le quantità di materie prime seconde prodotte per tipologia di materiale. Noi nell'ambito dell'Expo il sistema di raccolta è simile a quello che viene attuato nella città di Milano, quindi una raccolta separata della carta e del vetro e del cosiddetto multimateriale leggero, cioè plastica e metalli, più l'organico. Quindi noi andremo a misurare anche le quantità che saranno avviate al riciclo di tutte queste frazioni e quindi le materie prime che sono state evitate utilizzando appunto materie prime seconde. Il risparmio energetico legato al non utilizzo delle materie prime e anche il risparmio idrico legato sempre allo stesso concetto di non utilizzo delle materie prime. Tutto questo sarà dato appunto in una forma ovviamente molto sintetica, no? Però consentirà di capire qual è la sostenibilità dal punto di vista della gestione dei rifiuti all'interno dell'Expo. Se i numeri saranno confermati, perché poi finora ovviamente abbiamo solo delle stime, vorrà dire che ci sarà molto lavoro in più per l'AMSA, quindi state in qualche maniera preparato un piano che lei sappia operativo ad hoc per l'Expo? Allora, di questo non ho notizia. Quello che è certo comunque è che organizzativamente per l'AMSA sarà un impegno ulteriore rispetto a quello della gestione dei rifiuti nella città, quindi è qualche cosa che sicuramente loro dovranno prevedere. E per quel che riguarda voi, CONAI come si è preparato a questo appuntamento? Noi stiamo per attivare e per sensibilizzare le piattaforme convenzionate con i consorzi di filiera, appunto di carta, vetro, plastica, alluminio, acciaio e legno, in modo tale che siano in grado di ricevere questo surplus di materiale rispetto a quello che è la produzione normale della città di Milano. Ma su questo siamo molto preparati, quindi gli impianti di selezione e poi di avvio al riciclo dei materiali sono tranquillamente in grado di gestire questo incremento di quantità. Che poi avranno da sistemare sul mercato, che anche quello non è un dettaglio, ma insomma non dipende da voi. No, non dipenderà da noi, però ripeto, soprattutto poi nell'area lombarda gli impianti esistenti sono in grado di sostenere tranquillamente questo incremento di materiali senza alcun tipo di problema. Può essere anche un test per il famoso giubileo, ci risaremo con un grande evento. Sì, lì sarà un po' più problematico nella misura in cui siamo in un'altra regione che non è così avanzata come la regione Lombardia. Non lo dico perché sono di Milano, ma perché è la realtà, anche se dal nostro punto di vista, come è noto, tutti i materiali che vengono conferiti al sistema consortile, non solo per questo conferimento viene riconosciuto un corrispettivo ai comuni o comunque ai gestori, ma noi ci facciamo carico di tutti i costi che devono essere sostenuti per avviarli al riciclo in tutto il paese. Quindi dal nostro punto di vista noi facciamo questo regolarmente, e per chi dovrà organizzare questi eventi, come nel caso anche del giubileo, sanno che se questo materiale finisce nel circuito del sistema consortile, l'avvio al riciclo è garantito. E io mi è capitato di essere a Roma recentemente e ho visto molta sfiducia sulla raccolta differenziata. In realtà mi pare che a Roma qualcosa si stia muovendo finalmente. Sicuramente la situazione è migliorata rispetto al passato. A mio avviso c'è ancora molto da fare, anche se la città è una città non solo particolarmente estesa, ma anche un po' complicata, insomma, nel senso che ha un flusso turistico importante, quindi gestire la partita è abbastanza complicato. Questo non significa che non si possano fare dei miglioramenti. Ho ascoltato un'intervista dell'amministratore delegato di AMA proprio l'altro giorno, che diceva che avevano raggiunto il 43% di raccolta differenziata. Ecco, io ricordo sempre che l'importante è sì raggiungere obiettivi di raccolta, ma è ancora più importante sapere quanto di questa raccolta va poi al riciclo, perché abbiamo esperienze soprattutto nel centro-sud, dove a fronte di numeri di raccolta particolarmente elevati, poi la quantità di scarti dovuti a una raccolta di poca qualità diventano molto elevati, il che significa che buona parte di quello che è stato raccolto in modo separato finisce poi in modo indiretto in discarica. E questo come si può sapere? Un cittadino che vorrebbe questa informazione dove la cerca? Allora, questa informazione la dovrebbero dare in qualche modo i comuni. Noi stiamo lavorando con l'ANCI, che è l'Associazione dei Comuni Italiani, per fare in modo che nella banca dati ANCI CONAI, che ormai da molti anni dà una fotografia molto precisa della raccolta differenziata, si possa aggiungere questo dato, perché questo dato è conosciuto soprattutto da noi, cioè dal sistema che poi va a avviare al riciclo. Si tratta di renderlo pubblico. Grazie ancora una volta a Walter Facciotto, sempre disponibile, il direttore generale di CONAI. Adesso facciamo una breve pausa e poi parliamo di pini marittimi. L'altro pianeta. Ancora ben ritrovati da Laura Bettini, seconda parte dell'Altro Pianeta. Dopo aver sentito quali misure saranno in campo per la sensibilizzazione dei visitatori di Expo alla raccolta differenziata, cambiamo decisamente aria parlando di pini marittimi e cambiamenti climatici. Le conseguenze del riscaldamento del pianeta stanno infatti mettendo a dura prova la biodiversità della Terra e in particolare della nostra area mediterranea. Ma lo studio delle caratteristiche genetiche ed evolutive delle specie può darci una mano nel prevedere la risposta delle specie all'avversità e nel preservarle. A queste conclusioni è arrivato uno studio dell'Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR di Sesto Fiorentino, in collaborazione con gruppi di ricerca spagnoli, francesi, messicani e svizzeri. Il direttore dell'istituto è Giovanni Vendramin. Quello che noi facciamo è quello di vedere quali sono le strategie che gli alberi o le foreste in generale mettono in atto per far fronte ai cambiamenti climatici. Sostanzialmente ci sono due strategie che possono essere perseguite dagli alberi, o insomma in generale dagli organismi vegetali, ma in modo particolare dagli alberi che hanno lunghi cicli vitali e quindi sono più soggetti all'eterogeneità ambientale. Da una parte è quello di migrare, cioè cosa succede? Cambiano le condizioni ambientali, diventano meno favorevoli, le foreste si possono spostare in ambienti che possono essere più favorevoli e lo fanno attraverso la dispersione dei semi e del polline. No? Storicamente ci sono state queste migrazioni, no? Lei pensi durante l'ultima glaciazione, che cosa è successo? Sostanzialmente durante l'ultima glaciazione, quando metà Europa era coperta dai ghiacci, le piante sono sopravvissute nelle aree climaticamente più favorevoli. Ora cosa succede? Questa è una strategia che ancora può essere messa in atto dagli alberi, con una differenza, che i cambiamenti ambientali sono molto più repentini, cioè l'innalzamento della temperatura, la variazione dei regimi di precipitazione oppure la frequenza di eventi estremi. Avviene molto più rapidamente. L'aumento della temperatura in questi ultimi anni è molto più significativa rispetto a quello che è successo negli ultimi secoli, oppure cambiamento dei regimi delle precipitazioni avviene in maniera molto più repentina. Questo fa sì che la migrazione potrebbe non essere così efficiente quale strategia per far fronte ai cambiamenti ambientali. E allora qual è la seconda strategia? Che è quella che gli alberi, le piante si adattino alle nuove condizioni ambientali, si adattino in situ. E sostanzialmente questi tipi di organismi per adattarsi in situ si basano su quella che è la variabilità genetica che è presente all'interno di ciascuna popolazione. In genere quello che è stato osservato è tanta maggiore la variabilità e tanta maggiore la capacità di adattamento in situ. Noi monitoriamo questi due processi, da una parte monitoriamo qual è l'efficienza e il potenziale di migrazione e dall'altra cerchiamo di capire quali sono le basi molecolari dell'adattamento in situ alle nuove condizioni ambientali, perché è probabile, capisci, che una combinazione delle due strategie sarà quella che viene messa, sarà vincente, potrà far fronte ai cambiamenti ambientali attuali, quelli rapidi. Com'è che siete arrivati a scegliere il pino? E non... Ecco, questa è una bella domanda, nel senso noi concentriamo l'attenzione in modo particolare sugli ecosistemi mediterranei, perché gli ecosistemi mediterranei sono quelli che sono più vulnerabili ai cambiamenti climatici e nel contesto chiaramente degli ecosistemi forestali mediterranei i pini sono degli organismi, sono delle specie che sono particolarmente importanti, lo sono sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista ecologico. Senta, l'avete fatto in Spagna questo studio in particolare? Ecco, bene. Oppure quella è una parte, diciamo, il pino marittimo è una specie che ha una reale distribuzione circummediterraneo che va dall'Italia verso Occidente, quindi la trova in Italia, in Francia, Spagna, Penisola Iberica in generale e nel Nord Africa. Questo, diciamo, è la reale distribuzione. Noi abbiamo concentrato l'attenzione in Spagna, perché in Spagna i nostri colleghi spagnoli, essendo stati lungimiranti, hanno installato queste prove di provenienza tanti anni fa. Le prove di provenienza sostanzialmente consistono sono realizzate prendendo materiale dei semi da diverse provenienze che vengono piantati, vengono seminati e le piantine vengono fatte crescere in un ambiente climaticamente omogeneo. Cioè lei immagini di prendere diverse popolazioni italiane, francesi, nordafricane, spagnole, e poi di piantarle e metterle tutte nello stesso ambiente. E questa prova è stata realizzata in Spagna, ed è questa la ragione per cui abbiamo concentrato l'attenzione sul materiale spagnolo. E l'unica ragione è avere la disponibilità del materiale che permetta, come ha visto in questo lavoro, da una parte di monitorare la variabilità genetica attraverso metodi molecolari e dall'altra però anche di rilevare alcuni caratteri legati all'adattamento. Poi nel nostro caso particolare abbiamo semplicemente analizzato la capacità di sopravvivenza in ambienti abbastanza estremi. Cosa può nascere da questo? Abbiamo visto, ci sono tante varietà, questo aiuta la sopravvivenza, diciamo. Esatto. Allora, conoscere le basi molecolari dell'adattamento significa capire in che modo le diverse popolazioni si possono adattare a cambiamenti climatici, in questo caso specifico. Questo permette da una parte di identificare dei gene, dei pool genetici che hanno capacità di adattamento, quindi permettono di mettere, diciamo, queste informazioni sono incredibilmente utili per mettere in atto piani di conservazione della variabilità genetica di natura adattativa. Cioè lei sa che una popolazione, per semplificare, adesso sto semplificando molto, lei sa che una popolazione che contiene alcune varianti genetiche è una popolazione che ha più alte capacità di adattamento a particolari eventi climatici, assumiamo alla temperatura, alte temperature o a una ridotta disponibilità idrica. Lei può mettere in atto dei piani di conservazione di queste risorse genetiche. Poi queste risorse genetiche possono essere utilizzate in diversi modi. Possono essere utilizzate ad esempio per realizzare degli impianti ad alta capacità di adattamento, oppure si può favorire la conservazione e l'adattamento di questa specie attraverso delle operazioni di migrazione assistita, cioè si possono spostare le popolazioni in ambienti particolarmente adattati sapendo che quelle popolazioni hanno le caratteristiche per adattarsi a quelle particolari condizioni ambientali. Diciamo, questo è un po' quello che si può fare con questi tipi di informazioni. Magari intervenire anche in caso di malattie oltre che di cambiamenti climatici. Esattamente. Adesso quello che le ho detto io riguardo ai cambiamenti climatici può essere facilmente tradotto in tanti altri aspetti legati all'adattamento, come l'adattamento, come diceva lei, ai patogeni, ad esempio. Faccia conto, la strategia è esattamente la stessa, con la differenza che invece di andare a analizzare la variabilità genetica a livello di particolari porzioni del DNA che si suppone essere associata all'adattamento ai cambiamenti climatici, si focalizza l'attenzione su porzioni del genoma, del DNA, che si sa essere coinvolta nel conferire o meno resistenza ai patogeni. Semplicemente il target diventa diverso, i geni, certo, che si analizzano, le porzioni di DNA che si analizzano cambiano. Non dimentichiamoci poi che comunque i cambiamenti climatici hanno un grosso effetto anche sulla resistenza ai patogeni, sulle strategie che le piante mettono in atto per appunto resistere o ai patogeni. Chiaramente innalzamento e abbassamento della temperatura hanno un impatto sui cicli vitali delle piante, ad esempio sulla fenologia, il fatto che le gemme schiudano prima o dopo ha un impatto sulle relazioni con i cicli vitali dei patogeni. Quindi diciamo i cambiamenti climatici hanno un impatto molto molto ampio su tutto l'ecosistema, incluso quello delle relazioni con patogeni. Direttore, auguriamoci che venga usato questo studio, insomma, perché c'è un po' di disattenzione in giro sull'aspetto dei cambiamenti climatici. Assolutamente d'accordo con lei. Molto disinteresse, io il mio gruppo, insomma, la nostra comunità scientifica sta facendo grossi sforzi per innanzitutto far vedere con chiarezza che tutti i lavori che vengono fatti nei vari istituti, adesso nel nostro caso l'Istituto del CNR, l'Istituto di Bioscienze e Biorisorse, non sono un puro esercizio accademico, non è quella che viene definita, secondo me, qualche volta con un po' di superficialità e un po' di distacco ricerca di base, ma è una ricerca che cerca di comprendere i meccanismi e poi cerca di tradurre queste conoscenze in interventi reali, applicativi, cioè cerca di tradurli nella pratica. Come le dicevo, lei prova a immaginare la possibilità di spostare delle popolazioni, questo è molto importante da un punto di vista pratico, oppure che le dico conservare i pool genetici adattati ai cambiamenti climatici, oppure fare interventi volti a favorire l'incremento della variabilità genetica. Tutte queste hanno poi un risvolto pratico. Ma purtroppo, soprattutto in Italia, sono ancora decisamente poco utilizzate. Sì, sicuramente. Noi stiamo facendo grandi sforzi per cercare di rendere chiara qual è l'importanza di fare questi studi e come questi studi possono tradursi nella pratica, nella gestione. Certo, nei piani di adattamento che dovremmo fare, che non continuiamo a non fare, ma insomma ci sono vari ambiti di applicazione, forse appunto. Esatto. Grazie a Giovanni Vendramin, direttore dell'Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR di Sesto Fiorentino. Per scriverci l'indirizzo non è cambiato, l'altropianeta@radio24.it. Vi ricordo invece il nuovo orario, solo qualche minuto dopo quello solito. Ci troviamo infatti d'ora in poi alle 14.05. Buona Pasqua a tutti. Da Laura Bettini, appuntamento alla prossima settimana.